Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Alcune volte anche una maschera non sa nascondere la realtà. È così che l'artista discretamente si fa da una parte per lasciare il posto all'uomo. Il palcoscenico ritorna a colorarsi di grigio come un qualunque marciapiede, con le sue storie grottesche ed amare. Provate a immaginare una borgata negli anni 60. Gli edifici, le case, la polvere, il cemento tutto intorno, i negozi, le botteghe e la tranquillità che li avvolge. Ed è giusto così. In fondo la vita non possiede ritmi forsennati. Qualche macchina sporadica passa e suona il clacson, liberando il rumore del motore nell'aria. C'è anche il bus che passa e ingoia passeggeri come fossero caramelle. E poi la gente, le persone che camminano, chi va al lavoro, chi sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa, chi sta andando a trovare un medico, un amico, un amante. C'è un pallone che rotola per la strada, forse è il frutto di un tiro maldestro di un bimbo. C'è anche un cane che insegue il pallone. Poi a un certo punto rinuncia, come preso da una strana indolenza, per tornare verso il proprio padrone. Ecco, ora immaginatevi un urlo. Un urlo che non è un grido di paura o un lamento verso la luna. È un urlo che spezza tutto, le persone, i movimenti, il clacson, il quadro, tutto. Quell'urlo si chiama Renato Zero. Comunque voglio dirti una cosa, che sinceramente il fatto di il fatto mio personale non mi dà la possibilità di rompere questa mia necessità. Sarò così probabilmente anche a 50 anni, e lo spero per me. Non aspettatevi logica o morali, o magari della cronologia che faccia un po' da riferimento. Non aspettatevi niente. Perché è esattamente da questo principio, dallo zero appunto, che è partito tutto. E nello zero in qualche modo è rimasto, perché era giusto così, perché non poteva essere diversamente. Perché lo zero in fondo, a guardar bene, non è nient'altro che un cerchio che si chiude. È bene ricordarlo prima che il sipario si apra, mostrando un giovane con uno strano vestito addosso e le luci puntate su di sé. Lo spettacolo finalmente può cominciare. Volendo si potrebbe scrivere un trattato solo sull'abbigliamento di Renato Zero, lui e quella sua assurda collezione di lustrini, paillette, piume, cappelli e via dicendo. Per non parlare dei vestiti, ma forse non sono vestiti, forse sarebbe più giusto chiamarli costumi. D'altronde è di una maschera che stiamo parlando, di quelle che si indossano quando si vuole interpretare un personaggio. Sì, un costume è la definizione giusta, anche se non si capisce bene quale sia il personaggio. Se sia quel Renato Fiacchini nato a Roma nel 1950, oppure quel Renato Zero nato e cresciuto nella testa e nell'anima di Fiacchini e portato alla luce alla fine degli anni 60. Fiacchini Renato all'anagrafe lamenta di essere trascurato, di non ricevere le attenzioni adeguate, eccetera. Quando vado in tournée lui a malavoglia mi segue fino al camerino sul palco e mentre sto cantando una canzone dice: ma sei sicuro che sia la verità? Ma sei sicuro che volevi interpretare questo? Insomma, è tutta una perdita di tempo, sto litigare continuamente con il mio ego. Meglio lasciar perdere, tanto non se ne viene a capo. Rimaniamo nella borgata, quella su cui ci eravamo affacciati all'inizio, e diamole un nome. Montagnola. È un quartiere di Roma che si trova vicino all'Ardeatina, a sud della città, incastrata tra la Garbatella e Tormarancia. Ecco, rimaniamo lì per circa 13-14 anni, giusto il tempo di finire la scuola media. Dopodiché, basta, fine della vita normale. Ora ci si va a cambiare per entrare in scena. Della nostra vita, i migliori. Mio padre era un poliziotto e io regolarmente, un giorno sì, un giorno no, mi ritrovavo davanti a lui nei commissariati, perché questi cellulari ci caricavano dal Piper in questi posti dove noi frequentavamo e ci confrontavamo. C'era proprio questa abitudine che appena si vedeva uno stravagante, la polizia faceva immediatamente incetta di questi soggetti. Differenze di vedute. Potrebbe riassumersi così il rapporto tra la gente normale, come quella in divisa, per esempio, e Renato. Quello che i poliziotti, tra cui suo padre, liquidano con un aggettivo, stravagante, per lui è un mondo pieno di vita. Poco importa che questo mondo sia parecchio fuori dalla portata della gente comune, poco importa che sia una trasposizione tutta italiana di un'idea nata in America. L'importante è che lo faccia star bene. Lo fa stare bene perché possiede due elementi che Renato si è messo a inseguire: la musica e lo spettacolo. C'erano tutti, chiunque arrivasse a Roma di Sarno andava al Piper. Questo come fatto di persone, eccetera, come fatto di costume, sì, era 65, eh? Era un periodo eroico. Ma io non lo chiamerei tale, non penso di aver fatto nulla di eroico, per cui non penso che il Piper sia stato un fatto eroico. Sgombriamo definitivamente la testa da ogni dubbio. Qui non si parla di eroi, come avete sentito. Non c'è nulla di eroico nel Piper, nella sua sfavillante follia e nella sua musica incessante. Non c'è nei giganti e nei primitives, nei bad boys o negli eccentrics, in Lord Bob Brummel and his Nobleman Orchestra o in John L. Watson and the Hummelflux. L'eroismo non fa parte di questo posto. Figurarsi se ci potrebbe essere in uno che si chiama Renato Fiacchini, uno che vale zero. Certe cose si capiscono da subito. Doveva iniziare tutto molto presto per me, capito? Perché venivo da una scuola di suore francesi a Trinità dei Monti e quindi ebbi un'educazione di partenza fenomenale, sì. E che però come Franca mi Valeri, penalizzava, un po' come perché Franca. Sarei dovuto rimanere nella bambagia, capito? Cullato da questi organi a Cannes e da questa liturgia dell'insegnamento, invece poi mi mandarono alla Montagnola in mezzo ai coatti. E lì mi sono dovuto impratichire, perché lì è stato veramente il mio... la laurea l'ho presa lì. Eccolo allora, Renato Fiacchini, giovane romano laureatosi in strada che si avvia verso Via Tagliamento, al Piper, tutto contento, soddisfatto. In mano ha una borsa, dove tiene i vestiti normali, quelli che usa di giorno davanti ai genitori e agli abitanti del suo quartiere, quelli con cui esce prima di infilarsi in qualche androne per potersi cambiare. Ora infatti indossa una tuta color panna, infilata negli scarponcini neri, con una bella scollatura davanti a V, ornata di lustrini. La sua faccia è dipinta di bianco e gli occhi truccati di nero. I suoi capelli sono lunghi e mossi, una cascata di boccoli scuri. Mentre passa la gente lo indica e ride. Qualcuno gli urla: «Ma che ti credi di essere? Non sei nulla!» Ma lui sembra non dar peso a quegli insulti. Ha solo voglia di arrivare al Piper. Dentro c'è un'amica che lo aspetta. Si chiama Loredana. Non pretendo, scusa ti interrompo, di lasciare messaggi o fare della cultura, no, assolutamente. Quindi io vado così, a sensazioni. Ecco, adesso abbiamo il quadro completo. C'è il Piper con il suo palco sempre vivo e la sua atmosfera di libertà. C'è la gente che balla e i pensieri che volano via lontano. Ci sono Rita Pavone e Don Lurio che si muovono e sorridono sul palco. E dietro, poco più indietro, ci sono Renato e Loredana che seguono il tempo insieme ad altri ballerini. Come siano arrivati lì e come si siano incontrati non gli interessa. Non hanno nessun pensiero in testa che non sia quello di librarsi in volo. Ma non possono. Prima c'è da fare la gavetta. Io non le posso più. Basta, lo dico io. Lo sai? Perché vuoi sempre avere mi fai spingere questo coso da Piazza Venezia. Non la faccio più. Non sono Mister Muscolo, capito? Basta. Chi siete voi? Quale tu? Chi è il numero uno? Io. Come? Sono io il numero uno. Lei come si chiama? Loredana Bertè. Loredana. E lei? Renato Zero. Renato Zero. Dunque, spiegatemi prima di tutto una cosa. Siete vestiti così per un provino particolare? No, sempre, quotidianamente, ogni giorno. Quotidianamente. Avete sperimentato questi vostri costumi anche sul sull'autobus. Certo. Sugli autobus di Roma. Risultato che siamo scesi alla prossima. Alla prossima. E le avete fatte queste cose, investite così per provocare il pubblico? Certo. Certo. Certo. Spiegatemi una cosa, siete venuti qui per... Noi questo facciamo che tutto. Cosa? Facciamo, facciamo tutto. Balliamo, cantiamo e recitiamo. Adesso vi facciamo vedere una pellicola. Sempre insieme, saranno sempre insieme durante quel periodo, Renato e Loredana. Sempre insieme per dividere i sogni, i rifiuti, le occasioni, gli insulti. Insieme per provare vestiti, accordi, passi di ballo e canzoni. Che anni meravigliosi sono stati quelli per entrambi. Anni in cui non hai paura di niente, in cui tutti i giorni succede qualcosa. Magari incontri Fellini che ti vuole come comparsa nel suo film. Oppure bisogna dare una mano a un amico che ha un negozio di abbigliamento. E allora ci si veste da manichini e si balla per attirare l'attenzione dei passanti. Oppure ancora si esce con Adriano Panatta, il campione di tennis, che è il fidanzato di Loredana, e pensa di essere solo con lei. E poi si ritrova davanti a una specie di clown luccicante. Strano tipo quel Renato. Se lo guardi non da vicino, ma neanche troppo da lontano, non si riesce a capire se sia un uomo o una donna. Grazie all'ambiguità ne ho fatti felici molti, ne ho resi infelici parecchi, ma credo che questa ambiguità abbia comunque dato modo a tutti quanti voi di discutere. Non aspettatevi che Renato si astenga dal rispondere alle provocazioni. Lui vive di provocazioni, ci sguazza dentro e ha una risposta piccata per ogni domanda piccata. Adesso si fa perfino chiamare Zero, Renato Zero, perché quel niente che tanti vedono per lui è la vita, nome, cognome e carta di identità. Grazie a quel niente è entrato al Piper, grazie a quella nullità ha cominciato a ballare e cantare. Ed è sempre grazie a quello che è arrivato, dopo anni, a poter incidere un album tutto suo. È un disco strano, dentro ci sono influenze pop, rock, hippie, psichedeliche, melodiche. Qualcuno ci vede pure del proto-punk, ma forse si sta esagerando. In fondo è solo un primo album, anzi, il primo album di Zero. Batte il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione, tu. E mi vesto da re perché tu sia. Tu sei re di una notte di magia. All'estero David Bowie e Lurid hanno smesso di truccarsi. Peggio per loro, evidentemente. E non hanno. Secondo me non hanno trovato il pancake adatto alla loro faccia. Non c'è pace. Eppure sembrava che le critiche fossero finite con l'incisione del primo album. Finalmente Zero poteva diventare qualcuno, cioè Zero avrebbe dimostrato che era qualcuno. Ma non c'è modo di farlo capire a quella gente lì. È come se volessero a ogni costo trovare un senso o una lacuna da colmare. Lo fanno anche con Loredana, anche se con lei sono più gentili per ora. Non c'entra David Bowie e neppure Lou Reed, anche se tutti lo pensano. C'entra la musica, c'entra la libertà, c'entra Renato. Ma loro non lo capiscono, anche se il nostro si cimenta in improbabili iniziative di autopromozione come questa. Renato Fiacchini, nato a Roma il 30 settembre 1950, sarebbe stato un ottimo impiegato della SIP se non fosse stata la sua eccentricità e il suo estro a ricordargli che il suo posto era sul palcoscenico. Ha dovuto lottare per imporsi contro il mondo che voleva fare di lui oggetto di studio e di ricerca. Oggi il mondo sa di avere a che fare con un artista che canta la sua vita e quella degli altri. Pensavano di averlo tolto di mezzo, finalmente, quell'ambiguo ragazzo romano che pretende di cantare e ballare tutto truccato. Credevano che avrebbe rinunciato alla fine, evitando loro di doverlo guardare, di dover fare i conti con lui e la sua stravaganza. Credevano che fosse un soffio di vento, come quello che ha fatto irruzione nel Piper e che ora si sta lentamente sgonfiando. Ma si sbagliavano. Renato Zero non finisce con un locale. Renato Zero se ne costruirà uno tutto suo e se lo porterà in giro. Inciderà un altro album e si farà pubblicità da solo, come avete appena sentito. Farà follie se necessario, almeno finché non arriverà lassù dove vuole arrivare. I magnifici destini. Sono soddisfatto di voi, ma soprattutto soddisfatto di me, perché questa vita che ci vede truccati e multiformi, spesso anche a noi che stiamo da questa parte, pronti a farvi sorridere, a commuovervi, spesso siamo noi protagonisti di questa tristezza e di questa allegria. Grazie di esistere. Ce l'ha fatta. Incredibile ma vero, quel ragazzino romano di Borgata ce l'ha fatta. Ora ha una sua musica che per la verità è uno strano miscuglio di glam rock, di melodia italiana, di disco music anche. C'è la poesia, ma pure la strada, l'alto e il basso, l'introspezione e la superficialità. E funziona. Il pubblico lo adora. Ogni volta che finisce di parlare o di cantare parte a un'ovazione. Non è un pubblico normale, è il suo pubblico. Beh, il termine Soccini è un po' anche un, è stato un discorso, credo, di non è stata una scelta mia. È stato un fatto, diciamo, una volta messi quanto siete sorchi, questi dice, ah sì, sorchi, però siamo piccoli sorcini. Io naturalmente ho preso per buona questa cosa e allora ho subito coniato questo appellativo che mi sembra fra l'altro eccezionale, perché quando li vedi così piccoletti sui motorini con ste faccette sembrano topini. Lo zero non è più zero tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80. È lo zero più tutti i suoi innumerevoli fan, a cui si aggiungono il successo, la fama, la TV, i tour, il denaro. L'ambiguità ha trovato un grande spazio in cui potersi muovere e sviluppare, in cui potersi perdere e ritrovare, in cui potersi vendere e comprare. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. Mi vendo. C'è anche questa paura in tutti noi di non riconoscerli più gli amici, non di non averli, di non riconoscerli. Ve lo dice Renato? Perché delle volte abbiamo vicini degli amici, Piero Vivarelli, di anni e anni, li incontri una mattina, Piero, non sai più chi sono. E quello con la cocaina, e quell'altro è impazzito con il gioco, quello ha lasciato la moglie e i figli. Storie che si disintegrano e tu non ti rendi più conto qual è la persona veramente giusta a cui regalare il cuore. Ora c'è una gran confusione intorno a Renato. C'è qualche segnale che preoccupa. E i pensieri e le parole vengono fuori senza freni perché dentro lui non si tiene nulla. Forse vorrebbe che arrivassero anche alle orecchie della sua amica Loredana, anche lei in auge, anche lei in cima alla vetta, ma più fragile, più debole, volubile. Ma è tutto così maledettamente sberluccicante intorno che è un peccato preoccuparsi. C'è persino il cinema ora. Ciao, Ni. Sorpreso di vedermi? Sono io il tuo nemico. Tu? Cioè io? No, io. La parte normale di te. Sopporto più questi belletti, queste ciprie. Non è più tempo da dedicarmi, immerso come sei nel tuo successo. Dai tutto agli altri e a me non dai più niente. Ti odio e ti voglio vedere morto. Cosa fai se riesci a volare più in alto di Superman? Cosa fai se diventi più mitico dell'uomo più mitico del mondo? Ciao Ni, il film di Zero batte quello del supereroe volante, incassa di più. Allora è lecito sognare, allora quella musica, quella specie di rock di Borgata condito in salsa neomelodica non è un'illusione, e anche se tra i critici non sfonda, ci sono migliaia e migliaia di sorcini che vanno in visibilio, bisogna assolutamente festeggiare. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. La nullità ha trovato un posto dove essere felice. Poco importa che sia un tendone da circo, l'importante è che sia bello, pieno di luci e festoni, e che si possa muovere spostandosi di luogo in luogo senza un indirizzo o un numero che lo renda grigio, normale come gli altri. E che sia abbastanza grande da contenere tutti i sorcini, i tanto amati e fidati sorcini. Allora Zero diventa Zerolandia, un tour, un evento, il paese dei balocchi che arriva in città, un bastimento di libertà. Renato, questo disco ci hai presentato due brani, poi sì. Ce n'è un altro, si intitola Arti dei Antarti, sì. Che sarebbero i due opposti. Sarebbero i due opposti di un problema, credo, uguale, no? Un problema eterno dell'identificazione, cioè del bianco e del nero, e non certo delle mezze misure, perché oggi non abbiamo più tempo di usare dei toni un pochino sfumature, dilatati, sì. Oggi bisogna decidersi da che parte stare, perché Dalla nostra decisione dipende anche, credo, l'andamento di quest'Italia così, così inconsciamente stupenda. A un certo momento delle storie ci vuole un punto. Un punto per andare a capo e poter così dare una rilettura o una ripassata veloce a quello che è successo. O un punto che poi prosegue ma che permette di tirare il fiato un attimo per ripartire. Perché forse c'è bisogno di ripartire. Questo punto per Renato Zero si chiama Artide e Antartide e assomiglia tanto a un punto esclamativo. Che piaccia o meno, Renato fa musica, tra le altre cose, e questa musica ha una valenza. Artide e Antartide riesce a mettere d'accordo quasi tutti, diventando il disco più apprezzato tra i critici. Merito della vena poetica stradaiola che abbandona il trash per buttarsi nel sociale, mostrando un quadro malinconico ma reale della vita di borgata di Renato. Merito della scelta dell'arrangiamento che incalza le canzoni, dando quella mano di ruvido al suono. Ce l'ha fatta Zero. Anche sotto questo punto di vista ce l'ha fatta. E ora può godersi un po' di riposo. E questo tempo libero ce lo stiamo giocando malamente ultimamente. Invece il tempo libero fa cultura, il tempo libero fa stare insieme, fa anche innamorare il tempo libero, crea anche questo presupposto di ammiccamento che secondo me non è da buttare. Il tempo libero può essere una maledizione talvolta. Si pensa troppo, si finisce per rimanere confusi. La realtà non la può ingannare. E la realtà, verso la metà degli anni Ottanta, è che Zero, o meglio il costume da Zero, non funziona più. Finiti i poteri, finita la magia. Finiti, anzi cambiati, anche i tempi, che non sono più sospinti dal boom, quello economico e quello ideologico. Passata la sbornia, arriva il momento di mettersi un po' da parte. Il momento, come si diceva all'inizio, in cui l'artista lascia il posto all'uomo per incontrarne altri. Si chiama Phil Palmer e di mestiere fa il chitarrista turnista. Il turnista, la polide della musica, quello che suona con tutti e non suona con nessuno. Phil è bravo, è salito sul palco con i grandi tipo Eric Clapton o Mark Knopfler. Sarà lui a risvegliare Renato dal torpore che lo ha avvolto. Zero infatti sembra un po' perso, non riesce a togliersi quel costume di dosso. Anche la sua amica Loredana, in una fase controversa della sua vita, si è sposata con un campione di tennis, confusa, impacciata, e la vita da moglie non fa per lei. Non c'è altra cosa da fare per entrambi che girare al largo per un po' e scrutare l'orizzonte, sperando che il sole, così come è tramontato, torni a risorgere dal mare. Navighiamo già da un po', bene o male non lo so, stella guida agli occhi tuoi, un amore grande e noi peschiamo nella fantasia, pietre verdi di Bahia, al timone la follia. I magnifici destini. C'era una volta l'Italia che si raccontava per le strade e senza vergogna e senza malizia tirava fuori tutti i suoi vizi, i suoi peccati più intimi e più reconditi. Improvvisamente sono sbarcati gli americani con quattro gallette e un sacco di farina, hanno rimesso ordine nel nostro linguaggio e soprattutto ci hanno chiusi in casa a raccontarci di Dynasty, di una partita di pallone e di qualche altra cosa che non ricordo. Non vuole proprio saperne Renato di sparire in silenzio. Vuole rimanere aggrappato al suo mondo, quello che gli ha fatto conoscere la libertà, quello che lo ha portato in giro per l'Italia e nel cuore dei suoi fan, i sorcini, quello che lo ha tolto dalla borgata per piazzarlo in mezzo a un palcoscenico pieno di luci. Ma non può tornare indietro, non si può ricominciare, non si può indossare di nuovo il costume, perché il senso di tutto quello è tornato a essere zero. Bisogna accettare la realtà. Quasi sicuramente Renato Zero è il vero soggetto smarrito, cioè io ritengo di essere nel corso, abbiamo visto questa carrellata di canzoni, di dischi che mi hanno preceduto fino all'ultimo lavoro che si chiama Soggetti Smarriti. Oggi che mi sembra, non so voi, ma io ho talmente bisogno di vivere, di amare, di incontrare, di riaffacciarmi alla finestra e di chiamare la signora Clara della casa di fronte, di andare a fare la spesa al mercato, di incontrare le vecchie facce antiche del fruttivendolo, della donna che vende il pesce, eccetera. Cioè questa Italia mi sta sfuggendo un pochino dalle mani e questo mi dispiace non come artista ma soprattutto come persona. Vorrei rivedervi. La realtà, con il suo stile inconfondibile, viene inevitabilmente affrontata. Non è male, in fondo. Meglio accettare che rifiutare. Meglio parlare che tacere. La confusione, i bisogni, la speranza continuano a vivere dentro Renato. Tutta roba che ribolle in attesa di eruttare. E poi, se avete notato, c'è sempre un applauso forte e deciso, quasi un'ovazione dopo ogni sua risposta. Vorrà pur dire qualcosa. Basta solo trovare il coraggio di guardare avanti e non più indietro. A volte i piccoli gesti sono più importanti di quelli eclatanti. Non è facile retorica, né filosofia spicciola, non è una regola generale, ma fa parte del gioco. Un gioco che intorno allo zero assume spesso i contorni del surreale, del grottesco. E così Phil Palmer, il turnista, il burocrate della musica, quello che Renato ha sempre evitato di essere, diventa la spinta che rimette in moto la lancetta del motore, ferma appunto sullo zero. Phil è bravo, altro che impiegato. Insieme a Jeff Wesley, arrangiatore e produttore, mette mano al nuovo album del cantante romano, confezionando un disco diverso dai precedenti, un po' internazionale, un po' pop, ma senza derive pericolose, un po' melodico, perché certe cose non cambiano mai, e soprattutto senza bugie, né per se stessi, né per gli altri. Quanto basta per ricominciare a sognare. Perché respiri tu? Certe cose per capirle bisogna provarle. Inutile provare a immedesimarsi, è solo tempo perso. 2 anni dopo Voyeur, Renato, sfruttando l'inerzia, sbarca a Sanremo. La nullità nella culla della canzone italiana. Questa sì che è una notizia. Sarà la solita malinconica passerella del vecchio cantante in declino, pensano tutti. No, non può esserci declino per chi è partito da zero. E poi, chiunque lo conosca un minimo, lo sa, ogni volta che la voce di Renato si ferma, parte un applauso del pubblico, forte, immediato. Ma quello che succede dopo la sua esibizione con il brano Spalle al muro, va al di là del solito affettuoso tributo. La gente si alza, lo chiama fuori, urla, fischia, alza le braccia. I presentatori non riescono ad andare avanti col programma. Renato esce tra il tripudio generale, abbraccia tutti simbolicamente, si commuove. Ce l'ha fatta. Di nuovo insieme, lui e la sua gente. Quinto straniero abbinato fuori gara. La tua musica è un'ovazione qui. Renato non esce. La tua musica spazia tra il soul, cosa? Il funk. Io penso che va bravo. Renato. Vediamo. Non è che si superano le cose e uno si normalizza, o è che la vita è fatta proprio di passaggi, cioè ogni età ha le sue esigenze, ha i suoi colori, i suoi sapori. Quella è stata una stagione, è stata una stagione dove, nella quale anche io mi sono anche meritato anche certi risultati, perché il fatto di essere stato così provocatore, no? Certo. mi ha dato l'opportunità di conoscerla meglio la gente, perché era come se io sollecitassi la loro indole per capire esattamente che cosa, qual erano i loro pensieri. Cioè, conoscere la gente è una forma anche meravigliosa di conoscere se stessi, perché se non conosci la gente, come fai a conoscere te? Ora lo zero non è più sberluccicante, non ha più lustrini e paillette, neppure il viso truccato. Ora lo zero veste di nero, elegante, sembra quasi sobrio. Canta e lo fa con una voce viva, educata, profonda. Canta di quello che ha sempre cantato, la vita, la paura, l'amore e il fruttivendolo. E fa musica con l'occhio sempre strizzato alla melodia. Ogni apparizione è seguita da uno scroscio di battiti di mani, come sempre. E come sempre ogni parola è uno spillo che si diverte a punzecchiare quello che trova nei paraggi. Tempo al tempo, no? Sì. La cosa fondamentale è che per creare dei geni e delle persone stra-autosufficienti si pretende che un bambino di 8 anni vesta i panni di uno dei 16 e ragioni come uno dei 30. Non fate questa cazzata, perché i bambini devono tornare ad essere bambini, con i loro spazi, con le loro piccole nevrosi. Continua a parlare senza sosta, Renato, anche se la sua voce ha un tono leggermente più dimesso ora. Quell'urlo che aveva spezzato la vita di Borgata non c'è più. È rimasto intrappolato in un altro tempo, in quel percorso che divideva il quartiere Montagnola da via Tagliamento. Ed è giusto così. Adesso Renato Fiacchini non deve più pensare di essere una nullità, uno zero, perché lo zero, grazie a lui, ha acquisito un valore. Adesso può cantare con la sua voce inconfondibile, senza curarsi delle invidie o delle cattiverie altrui. Può fare musica come piace a lui. Può occuparsi della sua amica, Loredana, rimasta intrappolata in qualche androne con i vestiti di scena. C'è sempre tempo per tutto il resto. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai.